Domenica 17 novembre 2024, questa è la prima di una serie di brevi registrazioni, ma poco più che appunti, che tengo dalla Biennale di Venezia, che si intitola quest'anno Foreigners Everywhere. Non pretendo di commentare l'intera Biennale, sarebbe esagerato. Però ci sono alcune cose, chiaramente, qui in Biennale che impattano anche un po' le mie ricerche, i miei interessi. Per esempio, una grande installazione all'Arsenale, appena entrando, è questa che sto visitando adesso, cioè il Disobedience Archive, che da molto tempo, ormai va avanti in modo multiforme e trasformativo. Ci sono sempre un sacco di video in tutte le mostre, esibizioni, presenze in cui si manifesta. Cosa sono? Sono testimonianze video di fenomeni di disobbedienza in giro per il mondo, e chiaramente ben si contestualizza all'interno di una biennale che parla di crisi, parla di guerre e di spostamenti coatti di intere popolazioni, anche cambiamenti e adeguamenti coatti alle varie culture, il che va benissimo e io lo trovo una splendida iniziativa. Però un po' mi lascia interdetto questo fatto che sì, esiste il sito, il Disobedience Archive, che potete andare a vedere, ci sono chiaramente tutti i rimandi con i QR code a tutti gli artisti, il che sembra sposare bene anche un po' la mia idea dell'inversione di flusso, cioè lo spunto parte dalla mostra, dal luogo fisico e poi tu approfondisci in rete. Il problema è che poi in rete i video non ci sono. Cioè sembra quasi voler fin dall'inizio a restringere qualsiasi uso, per esempio curatoriale, di questi video, sempre di nuovo all'interno del collettivo che cura le mostre. Se davvero il messaggio doveva essere un messaggio di apertura e di superamento, per esempio, delle barriere, bene, mi sembra un po' strano che si debba mettere questa barriera in particolare. Per vedere i video devi andare, devi recarti fisicamente a uno di questi eventi, come per esempio adesso una di queste installazioni, diciamo, come quella che ora sto visitando alla Biennale. Non mi pare molto coerente e nemmeno troppo furbo.